rassegna stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. Non possiamo non parlare di Grecia, anche se io avevo auspicato la settimana scorsa, forse lo ricorderete, che questa settimana avremmo potuto raccontare la fine di questi negoziati. Non è così, ma forse potremo farlo lunedì, potranno fare dei colleghi, lo faranno sicuramente qui a Radio 24. Intanto vediamo però, perché questa settimana si è parlato comunque moltissimo di questi negoziati che sembrano veramente arrivati agli sgoccioli. Allora il Telegraph, per esempio, che è un quotidiano britannico che tra l'altro sarà presto anche alle prese con le considerazioni sulla Brexit, quindi sulla possibile uscita della Gran Bretagna dalla zona euro, non certo dall'Unione Europea. Ecco, secondo il Telegraph, la Grecia sospetta che i creditori internazionali stiano spingendo deliberatamente verso una crisi politica in una sorta di colpo di Stato. Questo è stato scritto mercoledì di questa settimana. Non se n'è poi molto parlato, perché naturalmente sarebbe una cosa molto grave, ma io sono convinta che in tanti lo pensano, perché è chiaro che il fallimento dei negoziati ha messo molto in crisi il governo Tsipras, che sapete è alla guida di un partito di estrema sinistra che, quando aveva stravinto alle ultime elezioni europee, aveva molto agitato alcune cancellerie europee, che appunto vedevano questa svolta di estrema sinistra della Grecia con non troppo favore. È il País invece, che è un quotidiano spagnolo di centrosinistra ma molto equilibrato e anche molto autorevole, tra l'altro il primo quotidiano di Spagna, sempre questa settimana si è chiesto: e se Varoufakis avesse ragione? Varoufakis è il ministro delle finanze greco che sta un po' alzando la voce, no? Sia lui che Tsipras hanno fatto dichiarazioni molto forti. E allora il País si chiede: questo braccio di ferro fra Atene e la ex Troica, che tra l'altro ha scatenato anche il parere di tanti economisti, forse andrebbe analizzato anche in un'ottica un po' diversa, appunto, dai bracci di ferro, dagli ultimatum, dall'uso delle parole di default, Grexit, eccetera. Scrive il País, ha scritto il País: la Grecia è il paese che ha fatto più riforme durante la crisi, e parla appunto di tutto quello che Varoufakis sta cercando di far passare, anche se poi, come abbiamo visto, passano messaggi molto più semplicistici che non quelli che riguardano la verità delle riforme fatte. E una banca tedesca, la Berenberg, che da anni analizza lo stato delle riforme, lo ha confermato. Adesso c'è questa esigenza però di Atene, perché è vero che Atene deve un sacco di soldi al Fondo Monetario Internazionale, è vero che la sua presidente Christine Lagarde ha detto: insomma, noi funzioniamo perché facciamo prestiti che poi ci vengono ridati, se questo meccanismo si rompe, ma che scoperta, non funzioniamo più. Il problema naturalmente è come sono stati prestati e come adesso vengono pretesi questi soldi di Atene, perché adesso Atene, sapete, ha una gravissima crisi di liquidità. Proprio di poche ore fa è la notizia che ci potrebbero essere dei grossi problemi lunedì alla riapertura delle banche, perché molte persone hanno continuato a ritirare i loro risparmi. Quindi questo era il País che, insomma, invitava a riflettere sulla reale situazione. Secondo El Mundo invece, che è un quotidiano spagnolo meno diffuso del País e un pochino più spostato verso destra, l'Eurozona si deve preparare a qualsiasi scenario, perché il fallimento del negoziato per El Mundo è dato quasi per scontato, e il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, intervistato proprio dal quotidiano spagnolo, ha detto queste parole: abbiamo sempre sostenuto che avremmo considerato le alternative rispetto alle riforme prospettate dal programma di aiuti a patto che avessero un reale valore. Ma secondo il vicepresidente della Commissione, la palla è appunto ancora nel campo del governo greco. Ha usato questa metafora calcistica. Passiamo a quella che abbiamo nominato prima, la Brexit. Di questo si è occupato Le Monde, che è un quotidiano francese, anche in questo caso di centrosinistra, ma molto, molto equilibrato, comunque molto autorevole. Secondo questo quotidiano, la Brexit potrebbe essere la Waterloo della Gran Bretagna, cioè una grande sconfitta. C'è una sorta di rivalsa storica, naturalmente, perché quella battaglia fu in realtà una sconfitta per i francesi. E questo editoriale, che tra l'altro Le Monde, e non è una cosa che accade spesso, ha tradotto sul suo sito anche in inglese, come per sperare o auspicare o spingere gli inglesi a leggerlo. Come scrive Le Monde: a 200 anni dalla sconfitta di Napoleone e proprio nei giorni delle commemorazioni di quella storica battaglia, Le Monde utilizza questa immagine di imperatore sconfitto Egitto, appunto, e scrive: il paese che ha messo in un angolo Napoleone non può soccombere a Nigel Farage. Nigel Farage, lo ricorderete forse, è il fondatore, il presidente di quel UKIP, quel partito anti-europeista, che poi in realtà le ultime politiche ha preso una batosta tremenda, però è stato proprio questo partito a iniziare, forse, o a fomentare l'ondata anti-europeista che poi è sfociata nella concessione di Cameron, che all'inizio era molto fumosa, in realtà adesso è molto concreta, nella concessione appunto di Cameron di indire un referendum che sarà probabilmente entro il 2016 per chiedere ai britannici se vogliono restare nell'Unione Europea. Secondo Le Figaro, che torna invece sulla questione della Grexit, questo fallimento delle trattative tra Atene e i suoi creditori sarebbe gravissimo per la Grecia. Anche Le Figaro, così come Il Mundo, è un quotidiano invece più di centrodestra, e in questo caso è Michel Sapin, che è il ministro delle finanze francesi, a parlare, e lo ha fatto proprio tra l'altro durante un question time dell'assemblea, perché sappiamo tutti, ce lo stiamo dicendo da tanto tempo, la Grexit e poi, speriamo di no, la Brexit potrebbero avere conseguenze anche psicologiche sul futuro dell'Unione Europea. Vi segnalo poi, invece, cambiamo un pochino argomento, anche se davvero sarebbero tantissimi gli approfondimenti che varrebbe la pena di fare su questa questione, ma sicuramente li avete fatti anche voi leggendo gli articoli anche sui giornali italiani sulla questione della Grecia. Cambiamo quindi argomento e parliamo di immigrazione. Anche di questo abbiamo sentito tantissimo parlare, e ho letto questo interessante articolo su Financial Times apparso giovedì, dove si dice: Renzi ha ragione sulle quote. Sapete che c'è appunto questa questione delle quote che l'Unione Europea sembrava aver definito, le quote dei profughi che ciascun paese dell'Unione deve prendere. Sembrava un accordo fatto e poi in realtà, alla prova dei fatti, i paesi ai quali sono state prospettate le quote hanno detto: ma non ci pensiamo proprio di farci imporre nuove quote, i profughi che abbiamo deciso di accogliere, abbiamo deciso noi di accoglierli anche in numero, e questa questione non ci va bene. Scrive invece Financial Times: Renzi ha ragione quando pretende che l'Unione Europea deve condividere il peso dei profughi del Mediterraneo. Il quotidiano chiede anche al governo inglese, e ricordiamo che il Regno Unito, così come non fa parte dell'Eurozona, non fa parte neanche della zona Schengen, che è quella zona di libera circolazione delle merci e delle persone che permette a noi europei di passare le frontiere senza mostrare un documento. Ecco, Financial Times chiede al governo della Gran Bretagna, quindi a David Cameron, di non tirarsi indietro accettando una quota giusta di profughi, e questo pezzo era intitolato Il grido di rabbia dell'Italia sulla crisi degli immigrati dell'Unione Europea. Una interessante novità sulla Grecia viene dalla Russia, perché si è sempre detto che forse la Russia era un po' il convitato di pietra in questi negoziati, la Russia che isolata al tavolo, isolata ai recenti tavoli internazionali, il G7, la Russia alla quale sono state applicate nuove sanzioni economiche. Sappiamo quanto questo potrebbe avere una conseguenza economica sull'Italia, perché noi siamo uno dei primi partner commerciali della Russia. Ebbene, adesso la Russia ha prospettato lo ha detto il vice primo ministro Arkady Dvorkovic alla televisione russa, che forse il Cremlino potrebbe dare una mano nella crisi greca. È una cosa un po' buttata lì venerdì, quindi il giorno prima di questo lungo weekend che porterà ai negoziati forse di lunedì, e però è una carta, è un jolly, ecco, che potrebbe essere interessante, anche perché Atene potrebbe cogliere questo jolly. Naturalmente la Russia vorrebbe qualcosa in cambio, e soprattutto bisognerebbe vedere quali sono le reazioni della Commissione Europea e del Fondo Monetario Internazionale in un momento in cui i rapporti con la Russia sono tesi per tanti altri motivi. Un'ultimissima segnalazione ve la faccio su una notizia che sicuramente, almeno per me, non è di segno positivo, che è arrivata questa settimana, ed è quella dell'intenzione dell'Ungheria di costruire un muro proprio per proteggersi dall'immigrazione clandestina. E su questo si sono pronunciati alcuni quotidiani belgi e anche Euronews, dicendo, citando molte fonti della Commissione Europea: il senso di queste dichiarazioni è: abbiamo abbattuto tanti muri di recente nel secolo scorso, naturalmente il più famoso è quello di Berlino, non dovremmo costruirne altri. Tra l'altro è stata proprio la Commissione Europea poi a prendere una posizione ufficiale, però sapete che in Ungheria ha di recente vinto un partito di centrodestra, anzi un partito decisamente di destra, che durante la campagna elettorale aveva fatto dell'immigrazione e della limitazione all'immigrazione clandestina uno dei suoi temi principali, e ha pagato perché le elezioni sono state vinte, e ora addirittura il premier di destra subisce le pressioni di un partito che ha avuto molti voti, un partito xenofobo che ha avuto molti voti appunto alle ultime elezioni dell'Ungheria. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi. Forse sabato prossimo potremo parlare finalmente di un accordo sul debito greco. Intanto un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.